l'altra Europa. Sono 9 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, siamo in diretta dagli studi di Radio 24 con il nostro viaggio settimanale alla scoperta dell'Europa, delle persone, delle storie, delle opportunità e delle possibilità e non solo. Oggi entreremo anche nel palazzo, entreremo nel Parlamento Europeo, ma lo faremo a modo nostro, quindi cercando sempre altri punti di vista. Le coordinate per seguirci in diretta anche sulle nostre piazze digitali le conoscete: Euronet Plus, R24, oppure il mio account personale @ Federico Taddia su Twitter e su Facebook. Lì i link relativi a tutti gli argomenti che andremo a toccare. Partiamo facendo un salto nel tempo, 100 anni fa, la Grande Guerra, ancora oggi protagonista per parlare di pace. Io ti passi me, moro un stat. Znaj tvoje pismo, jemnje mi sen. Pod poštrom ga skriva, dilna se da. Lei è Antonella Ruggeri, lui è Vlado Kreslin, cantautore folk sloveno. Stanno cantando Abele e Caino, con questo canto è stata inaugurata sabato scorso la Via della Pace, Pot Miru. Il vice presidente della provincia di Gorizia, Mara Cernic, ha detto: vogliamo creare un'emozione, e la musica crea emozione, la musica per concludere, o meglio aprire questo progetto, questo percorso, questo pezzo di storia per raccontare, rivivere quella che è stata la Grande Guerra, ma ovviamente guardando al presente e al futuro, dove la divisione diventa unione. Mara Cernic è qua con noi, buongiorno, benvenuta all'Altra Europa. No, buongiorno, grazie a tutti quanti. Che cos'è oggi questa Via della Pace? Cos'è oggi la Via della Pace? È un progetto, a dire la verità è un itinerario proprio fisico, è un percorso che parte da Duino, praticamente dalla punta estrema dell'Adriatico, e fisicamente ripercorre quello che è stato il fronte dell'Isonzo, dove si sono svolte le 12 battaglie dell'Isonzo, per poter arrivare fino nelle Alpi Giulie, fino al Monte Rombon praticamente. Segue tutto questo percorso, è proprio un itinerario, cioè uno lo può fare a piedi, può ripercorrere attraverso i cippi, i camminamenti, le gallerie, le trincee che sono state costruite, rivedere cos'era questo fronte dell'Isonzo. Certo. E questa è la parte fisica, diciamo, no? Mm-hmm. Così. Però la Via della Pace, poi, così come ogni via, come ogni strada, come ogni sentiero, è anche un momento di riflessione. Beh, per noi, prima di tutto, anche di commemorazione di quello che è successo 100 anni fa su questo fronte, su questo nostro... Quella volta è stato posto un confine su un territorio che è sempre stato misto, latino e slavo, ma anche germanico. Certo. Quella volta, dopo la Prima Guerra Mondiale, viene posto un confine molto netto che determinerà i 100 anni fino ad oggi di storia di questo piccolo nostro territorio. Allora la Via della Pace vuole essere un po' tutto questo, no? Vuole, attraverso l'aspetto fisico, la conoscenza del territorio, i segni lasciati sul territorio, farlo scoprire, farlo rivivere, farle riflettere, ecco, tutte queste cose qua insieme. Tutte queste cose qua insieme, tradotte in 280 chilometri di sentieri, di resti di trincee, di caverne, fortificazioni, chiese, cimiteri militari. €1 milione è stato finanziato questo progetto, realizzato dalla provincia di Gorizia e dalla Fondazione Slovena dell'Alto Isonzo, finanziato anche dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia, sono i fondi per la cooperazione territoriale. L'architetto Boris Podrecca, durante l'inaugurazione, ha detto: la Via della Pace consolida le differenze, perché le diversità sono fonte di saggezza e di reciproca conoscenza, e chiama questa Via della Pace come l'Europa di mezzo. Credo che in questa frase ci sia anche tutta la suggestione di quella che è o dovrebbe essere l'Europa oggi, comunque un posto dove le differenze vengono consolidate proprio perché sono fonte di ricchezza. Sì, vengono consolidate, io direi anche valorizzate. Lui usa questo termine, no? Zwischen Europa, nel mezzo, l'Europa di mezzo, anche perché, diciamo, qui che sia Vienna, che sia Gorizia, che sia Lubiana o che sia Trieste, quando ti giri a 360 gradi hai 5-6 popoli diversi intorno a te, 5-6 culture diverse, lingue diverse, religioni diverse in uno spazio fisico molto contenuto, diciamo, no? Anche in termini di distanza, parliamo di massimo 300 chilometri, insomma, certo. 400 proprio alla grande. E in questi 360 gradi hai queste differenze così diverse, cioè questa grande diversità che diventa pluralità, che diventa ricchezza, che diventa, che è oggi un modo di vivere, è quella che noi vogliamo essere l'Europa, insomma, penso che fosse questo un po' il concetto. Penso anch'io, allora, certo, cerniera geografica e cerniera culturale, esatto. Di quella cernice che lei ha definito anche un'Italia molto esotica, o meglio, ci sono... Sì, l'ho definita molto esotica perché... Noi siamo, ci dicono che siamo a nord-est, no? Gorizia è nord-est, ma in realtà noi siamo al di là del nord-est, noi non siamo il Veneto, no? Mm-hmm. O non siamo la provincia di Pordenone, siamo ancora più in là. E quindi quando andiamo a Roma o nel centro Italia, eccetera, siamo molto diversi, diciamo così, no? Proprio forse perché subiamo questi influssi così mitteleuropei, o siamo, no? Siamo molto vicini alla mitteleuropa, che è diversa dal mondo latino puro. Certo. No, su cur, anche perché Roma comunque tutta la penisola italica è circondata dal mare, non è che abbia degli influssi così diretti come i nostri. Allora sembriamo molto esotici, insomma, noi, sicuramente, da questo punto di vista. www.pottemiru.si/ita, questo è il sito del progetto per conoscere la Via della Pace, Potte Miru. Grazie davvero a Mara Cernic, vicepresidente della provincia di Gorizia, complimenti per il bel lavoro fatto, buon sabato. Grazie a voi e buona proseguimento. L'altra Europa. Should have more knowledge about how the political systems work. We continue by giving more space for young people into the political decision-making bodies. And after that, also politicians lifting youth issues. If youth issues are not in the core of the political agenda, young people will not be interested about politics. Sono voci di under 40 quelle che state ascoltando, sono voci di parlamentari europei under 40. Tante volte qui all'Altra Europa, il programma, vi ricordo, in collaborazione con Euronet Plus, tante radio europee, tante lingue diverse per raccontare la stessa Europa. Tante volte abbiamo detto che la colonna portante, la colonna culturale probabilmente dell'Unione Europea sta nella generazione Erasmus, di chi ha capito che il confine va superato, di chi ha capito che il confine è un concetto aleatorio, di chi ha capito che la ricchezza sta nella contaminazione. La generazione Erasmus è arrivata anche dentro al Parlamento Europeo e sono loro che forse possono veramente e finalmente cambiare un po' l'idea d'Europa. E alla base di questo ci sta questo network che è stato lanciato questa settimana, una rete tra i parlamentari europei under 40 per insieme disegnare nuove politiche in favore dei giovani. Tra i promotori di questo network c'è l'europarlamentare europea Anna Ascani, che è qua con noi. Ciao Anna, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, grazie per il parlamentare europeo, ma no, io sono il parlamentare. Ah, scusa, sì, hai ragione, ho messo insieme europeo era tale che siamo stati condizionati. Ho messo insieme io per prefissi, chiedo scusa. Anna, che clima si è respirato intanto in questa giornata di lancio di questo network? Guarda, devo dire che c'è stato un grandissimo entusiasmo e la voglia di condividere problemi, opportunità, best practices, perché trovarsi in Parlamento alla nostra età, siamo tutti under 40, con la responsabilità di onorare il mandato e in più di rispondere alle tante aspettative che si hanno nei confronti della nostra generazione, è qualcosa di molto impegnativo. Poterlo condividere con chi lo fa nel proprio paese d'appartenenza significa avere una marcia in più. Quindi il clima è quello di chi ha veramente voglia di dare le gambe a questa idea. Abbiamo appena cominciato e la vera notizia da dare è che tra 6 mesi saremo a Berlino a riproporre questo appuntamento, quindi insomma non è stato un evento spot, ma è stato l'inizio di un percorso. Certo, www.youthforum.org è il sito del forum dei giovani europei, un manifesto che contiene già delle proposte concrete per fare lo step successivo alla chiacchiera iniziale, giusto? Esatto, abbiamo sottoscritto uno statement in cui ci sono temi molto concreti, dalla garanzia giovani, quindi da come il budget della Commissione europea deve destinare risorse strutturali alla risoluzione del dramma della disoccupazione giovanile, quindi non più misure che intervengono ogni tanto senza poterci appunto contare in maniera definitiva, ma una parte di budget dedicato proprio a questo a livello europeo, e poi la promozione di Erasmus Plus fatta in maniera, diciamo anche qui, più strutturale, più chiara, e poi tutti interventi che non riguardano solo la nostra generazione, ad esempio interventi che riguardano il mondo dell'energia, il digitale, l'innovazione in generale, quindi tutto quello che serve ad avere un'Europa più al passo col resto del mondo. Chiaramente ci riguarda, perché il futuro dell'Europa sarà il nostro futuro di adulti europei, ma riguarda tutti. Quindi siamo una generazione che non si occupa solo di se stessa, cerca di occuparsi del futuro di tutti. Questo credo sia un buon segnale. In sostanza lo statement dice questo, dice: lavoriamo insieme nei parlamenti d'appartenenza perché tutti si vada nella stessa direzione. Certo, ma Anna, anche chiacchierando con i colleghi, c'è comunque una concezione o una differenza generazionale nei confronti dell'Europa tra chi, adesso voi avete messo la soglia dei 40 anni come, insomma, come soglia anche simbolica, ti accorgi però che c'è proprio un'idea diversa di Europa tra chi è sotto e sopra questa soglia? Sì, perché noi siamo quelli che hanno viaggiato liberamente in Europa senza passaporto. Sembra una cosa scontata. In realtà per noi i confini non sono tanto i confini dei paesi d'appartenenza, sono proprio i confini europei. Cioè c'è una differenza tra il mondo che sta dentro i confini europei e quello che sta fuori. Quindi ci concepiamo già come concittadini, come cittadini di una stessa comunità. E questo l'abbiamo come tratto distintivo noi, proprio perché siamo quelli che chiamano generazione Erasmus, ma è proprio così, ci siamo spesso formati all'estero. Molti di noi hanno appunto viaggiato senza il peso del passaporto, senza i controlli alla frontiera, sentendosi cittadini anche degli stati in cui si arrivava. Questo fa la differenza anche rispetto alla programmazione di politiche comuni, proprio perché se la comunità è comune, anche le politiche devono essere comuni. La rete regioni parlamentari quindi si riunirà ogni 6 mesi, ha detto che il prossimo appuntamento è a Berlino, ci ritroveremo qui per raccontare un po' il percorso fatto e gli obiettivi raggiunti. Grazie davvero, Anna. Molto volentieri, grazie a voi, buona giornata. Buon lavoro. Europost-it. Medioera, festival di cultura digitale. Nuove tecnologie, rete, possibilità, incontri, idee, futuro. Con questa filosofia nasce Medioera, il Festival della Cultura Digitale. Giunto alla sua 6ª edizione, quest'anno si svolgerà a Viterbo dal 9 al 12 aprile nello spazio iCult, l'incubatore high-tech di BIC Lazio. Sarà un momento di incontro e approfondimento sulle tematiche legate all'uso delle nuove tecnologie nei diversi ambiti della vita. Medioera, patrocinato anche dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, rappresenta una grande opportunità per le generazioni future, per capire meglio l'attuale rivoluzione digitale che investe oggi ogni aspetto della società. Per scaricare il programma, visitate il sito medioera.it. We'd be there together, just like we used to be. Underneath the swirling skies for all to see. And I'm dreaming of a place where I could see your face. And I think my brush would take me there. L'arte è identità, l'arte è vita, l'arte è immateriale, l'arte è unità, l'arte è diversità. Con questa sorta di manifesto arrivano oggi a Palermo 30 artisti italiani e stranieri selezionati nell'ambito di un progetto che si chiama iHeart. 30 artisti che avranno il compito di reinterpretare l'identità siciliana in altrettanti comuni dell'isola. Un progetto supportato dal programma operativo FESR, Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, l'Europa delle possibilità e l'Europa delle opportunità, che ci piace raccontare, e lo facciamo con Lucio Tambuzzo, ideatore e direttore generale del progetto iArt e direttore dell'associazione iWorld. Ciao Lucio, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, cosa combinerete in questi 6 mesi? Cosa state combinando in Sicilia? Beh, tante cose. Partiamo con una rete già costituita in ATS di 100 comuni siciliani, tante associazioni, dove faremo 23 centri culturali polivalenti che il progetto ci permette di attrezzare con sistemi di videoproiezione, vetrine espositive. Faremo una rete dell'arte contemporanea, gli artisti che saranno ammessi alla rete potranno avere una galleria online in cui presentare i loro lavori. I loro lavori saranno anche pubblicizzati e promossi con tutti i social media marketing diciamo, promozione del progetto. Oggi proprio, ecco, stiamo appena presentando questi 30 artisti che abbiamo selezionato da su circa 600 richieste che abbiamo avuto. Saranno dislocati, come dicevi, in 30 comuni siciliani dove si confronteranno con l'universo del patrimonio culturale immateriale di ogni territorio per cercare di riattualizzare il discorso sulla tradizione, che spesso è anche sentito in maniera immutabile, ma certo, che ha bisogno di essere posto all'attenzione creativa e produttiva. Ma quindi sono artisti che vivranno nei prossimi mesi in questi comuni? Allora, loro staranno un mese in tutti questi comuni, realizzano delle nuove opere d'arte che rimarranno in disponibilità dei comuni, e dopodiché il progetto prevede tante altre attività. Ci sono dei laboratori con tra l'altro l'Odin Teatre e Eugenio Barba, e poi ci sarà un grande programma di festival, sono circa 115 eventi di teatro, danza, musica, arti visive, cinema, letteratura, mostre di architettura contemporanea e tanto altro. Col festival cominciamo a maggio e finiamo a settembre, quindi sono eventi quotidianamente in tutti i comuni coinvolti nell'ATS. Insomma, anche questo è un bel viaggio nel tempo, no? Perché rinnovare la tradizione sembra quasi un ossimoro, invece è proprio questa reinterpretazione che è un po' il concetto che c'è alla base del progetto, per rivitalizzare non solo, mi pare di capire, delle tradizioni, ma soprattutto un territorio e le sue culture. Sì, sono territori in cui il tema identitario è fortissimo e lo si vede nella sfera produttiva, con tutta una serie di produzioni tipiche che mantengono ancora delle tecniche tradizionali che stanno rischiando di essere perse, ma che attraverso questo, ma anche altri progetti, noi come associazione iWorld cerchiamo sempre di porre all'attenzione della sfera, come dicevo, produttiva, creare processi di sviluppo sul fronte anche turistico, attraverso dei viaggi che mettono in relazione i turisti con gli artigiani, con il calendario cerimoniale, con le festività, per permettere anche di avere una visione, se vogliamo, più autentica di quello che realmente la Sicilia è, anche fuori dagli stereotipi in cui spesso è vincolata. Certo, quindi l'identità è senz'altro un discorso molto attuale, ma che va ancora di più attualizzato. L'intervento dell'arte contemporanea multidisciplinare ci permette di entrare in relazione con queste tecniche tradizionali, con anche le festività pagane e religiose, e di riviverle e vederle con gli occhi di chi probabilmente non le ha mai viste, un po' dinamizzate. Sì, ma poi questo intreccio tra l'occhio visionario dell'artista e la vita quotidiana di chi quelle terre, appunto, le frequenta giorno per giorno, credo che anche questo sia un ottimo valore aggiunto. www.ilinettaart.it, questo è il sito del progetto iArt che vi invito a visitare. Grazie davvero, Lucio. Buon lavoro, perché adesso grazie inizia il bello. Ciao. Un Europostit, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Opportunità di tirocinio per neodiplomati. Vi siete appena diplomati nel settore del turismo e volete fare un'esperienza all'estero? Grazie ai fondi Erasmus Plus, il centro di formazione di Ascom, Confcommercio Modena e Famiglia Artigiana Modenese ha attivato 39 tirocini a Berlino, Bordeaux, Creta e Dublino. Gli stage dureranno 3 mesi e si svolgeranno nel periodo estivo in aziende private o enti pubblici. La selezione verrà effettuata attraverso un colloquio motivazionale in italiano e un test scritto e orale della lingua del paese ospitante. La scadenza per inviare la propria candidatura è il 10 aprile. Per tutte le informazioni, iscom-modena.it. L'altra Europa. Ancora buona il sabato, ancora Federico Taddia, www.radio24.it. Avete sentito anche dal promo poco fa il nostro nuovo sito, vi invito anche a visitare lo spazio dedicato all'altra Europa, lì potete riascoltare e scaricare il podcast delle puntate e non solo, stiamo preparando anche un bel po' di contenuti extra, in particolare gli Euro Post-it, le nostre segnalazioni con aggiornamenti continui per andare a scovare tutte le opportunità e le possibilità in giro per l'Europa. Radio24.it, quindi le pagine dell'altra Europa. Waiting for the Night, stiamo ascoltando questa canzone perché andiamo verso la notte, lo facciamo con un progetto europeo che ha vissuto il weekend scorso un importante appuntamento proprio in Italia, a Torniella, che è una piccola frazione di Roccastrada, siamo in provincia di Grosseto, dove si è tenuto un incontro con alcuni ricercatori attivi nella rete europea Lost of the Night. Chi sono? Sono studiosi, ricercatori che basano il loro operato per fotografare la situazione dell'inquinamento luminoso e degli effetti della luce artificiale notturna sull'ambiente. In Europa c'erano ricercatori provenienti da Germania, Austria, Spagna, Ungheria, Grecia, Olanda. Con noi c'è Andrea Giacomelli, che è uno dei due rappresentanti per l'Italia della rete ed è nel comitato divulgativo. Ciao Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno. Allora, questa rete di cosa si occupa e come operate? Dunque, la rete è un progetto finanziato dall'Unione Europea per sostenere proprio lo scambio di esperienze tra i ricercatori e il confronto su temi di ricerca. Sì. In questo caso il tema è la luce artificiale notturna, gli effetti che può avere su ambiente, ecologia, salute umana, risparmio energetico. E quindi di fatto la rete Lost of the Night ci dà l'opportunità di mettere insieme persone che altrimenti difficilmente collaborerebbero e di, dall'esperienza condivisa, proporre poi delle soluzioni che possono essere riapplicate in tutta Europa e oltre. In particolare voi in Italia vi occupate di buiometria partecipativa, che è un progetto che fa parte appunto del programma più ampio di Lost of the Night del network. Cosa combinate? Sì, con la buiometria siamo di fatto partiti già prima di Lost of the Night ed è stata proprio l'esperienza del far fare a cittadini qualunque misure di qualità del cielo notturno con degli strumenti comunque scientifici, utili a produrre misure per un monitoraggio dell'ambiente. Questo progetto con cui eravamo partiti nel 2008 aveva una componente sia di raccolta dati che di divulgazione e per questo siamo stati di interesse sulla rete dell'ONNE per proporre attività e di raccolta dati e di divulgazione. Ma quindi misurate proprio il buio notturno? Sì, si tratta nella brevità, il buio può essere misurato con uno strumento che equivale più o meno a un esposimetro, però tarato sulla la luminosità del fondo del cielo, dove andando in città o anche nelle prossimità di città si misura un valore di 16, andando in mare aperto, nel deserto, oppure in Italia, nell'entroterra maremmano, in Sardegna, in montagna o in Calabria Basilicata, si misurano valori oltre 21. Quindi, e questo valore è correlato alla quantità di luce che viene buttata verso l'alto, e quindi di fatto non serve illuminare le strade o le persone, quindi è uno spreco di energia. Certo, insomma, queste sono le zone più buie d'Italia, quelle che ci hai un po' illustrato, ma c'è una fotografia simile anche a livello europeo? Sì, di fatto poi da satellite è stata fatta un atlante mondiale, una prima versione del 2000-2001, e prossimamente da qui a un anno uscirà una versione aggiornata in cui si possono vedere chiaramente in modo molto intuitivo quelle che sono zone molto buie, che di massima sono zone con densità di popolazione molto bassa e poche infrastrutture, quindi zone anche tra virgolette o forse anche senza virgolette un po' più povere di altre, in cui però il cielo notturno può anche essere utilizzato come risorsa. Esistono negli ultimi 10 anni sono nati i parchi delle stelle, sono parchi di riserve naturali in cui si fa un'attenzione particolare al cielo notturno, quindi si creano condizioni per, oltre a fare attività tipiche di escursioni in una zona naturale di giorno, anche escursioni notturne. Certo, che comunque aggiungo, prego. Scusa, Federico, le altre zone meno luminose di altre sono le zone in cui l'illuminazione è fatta bene. Ecco, no, infatti è questo, stavo proprio arrivando lì, nel senso sì. Che c'è un cambiamento culturale, ma anche le nuove tecnologie stanno venendo in aiuto. Sicuramente, e quello che si vede in paesi dove sono più avanti, la cosa è molta macchia di leopardo, non è che è più a livello di regioni forse, però quello che si vede chiaramente è che in paesi in cui si tiene conto sia per esigenze di efficienza energetica che di tutela della parte di inquinamento luminoso, che possono essere scorrelate, perché posso usare luci con molta efficienza energetica ma orientate male e quindi comunque causare inquinamento luminoso, però combinando queste due esigenze si può fare a livello tecnico, non è complicato, a volte più una volontà politica, una consapevolezza che non un problema tecnico. Si possono avere anche zone molto abitate dove c'è tutta la luce che serve per esigenze di sicurezza e attività serali notturne senza compromettere la qualità del cielo. Ma ci sono nazionalità virtuose che sono un po' il vostro faro, che sono un po' indicate come appunto esperienza a cui ispirarsi? A livello di nazioni proprio virtuose, è virtuoso chi fa una legge nazionale magari proprio sull'inquinamento luminoso, in sì. Questo senso ci sono la Slovenia che da 9 anni ha una legge di questo tipo, la Francia un annetto fa ha fatto una legge simile, quindi ci sono esperienze, però anche a livello regionale in Italia ci sono comunque regioni che hanno messo in atto leggi regionali virtuose e le stanno anche facendo funzionare. Quindi insomma ci si sta muovendo. www.costlinettalonne.eu è il sito della rete, www.attivarti.org invece per conoscere nel dettaglio quello che viene fatto in Italia. Un grazie ad Andrea Giacomelli, ciao Andrea, buon lavoro. Grazie a voi, ciao. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Carta Erasmus per l'istruzione superiore, selezione 2016. È prevista per il prossimo 30 aprile la scadenza per la presentazione delle candidature per l'ottenimento dell'Erasmus Charter for Higher Education, destinata agli istituti di istruzione superiore, per candidarsi al programma Erasmus Plus settore universitario. Sul sito dell'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura sono disponibili tutte le informazioni per compilare correttamente il modulo di iscrizione entro il prossimo 30 aprile. Visitato il sito eacea.ec.europa.eu. L'altra Europa. Calcio ora all'altra Europa e lo facciamo ovviamente con la chiave tutta nostra, lo facciamo presentandovi un libro appena uscito da una nuova casa editrice, si chiama Edizioni in Contropiede. Il libro si intitola Memorie dell'Europa calcistica, l'Erasmus del pallone. Ecco che ritorna l'Erasmus ed ecco che ritorna sotto forma di sport, in questo caso lo sport più famoso del mondo, che è ovviamente il calcio. Con noi Federico Mastro Lilli, curatore del libro. Ciao Federico, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Intanto, velocissimamente, che cos'è in Contropiede? Ah, in Contropiede è una casa editrice piccola, molto combattiva, che hanno aperto due amici veneti, scrittori di calcio anche, e mi hanno fatto così la cortesia di affidarmi una collana che io ho subito preso al balzo. L'hai presa al balzo e l'hai subito internazionalizzata, appunto portando l'Erasmus del pallone in questo libro. E cosa intendi per Erasmus del pallone? L'Erasmus del pallone è un po' l'alfabeto, è un po' una formula così che io racchiudo la nostra generazione, cioè quelli che siamo cresciuti con l'Europa. Noi di 30 anni, che sono un po' gli autori di questo libro, siamo cresciuti nell'Europa con l'Erasmus, grazie all'Erasmus, e il calcio è stato un po' il nostro alfabeto, il modo per conoscere, per farci accettare, per integrarci nei paesi in cui andavamo a vivere. Mm-hmm. Nel senso che la squadra di appartenenza o il tifo come propria carta d'identità? No, più che altro io, insomma, l'esempio che faccio è questo, cioè quando sono andato ad esempio in Erasmus io a Barcellona, non parlavo la lingua, cioè ovviamente dico lo spagnolo perché il catalano neanche adesso, che sono 10 anni che ci vivo, lo parlo, ma non parlavo la lingua, conoscevo poco anche la cultura. Il primo momento, anche così all'università c'era un po' di freddezza, il primo momento in cui mi sono sentito veramente integrato è stato quando ho trovato un gruppo di ragazzi, erano spagnoli, catalani, sudamericani, inglesi, francesi, che si riunivano in un campo peraltro stupendo il lunedì sera per giocare a pallone, e lì ci siamo conosciuti, io mi sono sentito parte finalmente di quel paese e ho capito anche come funzionavano le cose, perché ad esempio una sera che c'era il mondiale, era il 2006, giocava la Spagna, mi ricordo, con la Tunisia. A un certo punto, mentre giocavamo, io sentii un boato, tutti sentimmo un boato pazzesco dai palazzi intorno al campo, perché io mi fermai e dissi a questo vecchio signore catalano che giocava in attacco con me, disse: senti, ha segnato la Spagna. E lui mi disse: no, non hai capito niente, ha segnato la Tunisia. E lì capii quella questione catalana con un gol. Sono 10 storie, 10 autori diversi che raccontano cosa in questo Memorie dell'Europa calcistica? Ma raccontano fondamentalmente ricordi, cioè esperienze di luoghi in cui hanno vissuto, in cui hanno viaggiato, a cui sono solamente legati con la memoria. Perché io ho chiesto a ognuno di questi autori, di questi ragazzi, di questi amici, di questi scrittori, alla fine, di raccontare il paese europeo a cui sono più legati. Quindi alla fine ne esce fuori un mosaico polifonico che vuole un po' raccontare l'Europa vista dai trentenni, vista da questa generazione che io, insomma, scrivo nella prefazione, è la prima che l'ha veramente vissuta, grazie appunto ai voli low cost, al progetto Erasmus e a questa facilità di movimento che abbiamo avuto. Mm-hmm. Ma è facilità anche di diventare magari tifosi appunto di una squadra europea? Insomma, io ho conosciuto più di una persona che magari ha fatto l'abbonamento in giro per l'Europa, invece di andare allo stadio a Milano o a Roma o a Bologna, questo era di Cesena, ricordo, l'ultimo che ho intervistato, lui una settimana sì, una settimana no, si fa il suo volo verso l'Inghilterra e va a seguire dallo stadio la sua squadra del cuore. Sì, ci sono questi maniaci, ad esempio in Italia c'è una pegna, c'è un gruppo di tifosi dell'Athletic Bilbao, che è uno dei più come dire, rumorosi, cioè vanno sempre lì alle trasferte, io li stimo da morire, è pieno di queste situazioni, sia personali che istituzionalizzate. Io ad esempio, il mio piccolo, io sono un tifosissimo dell'Osasuna, che è una squadra di Pamplona, che peraltro sta vivendo un momento durissimo nella sua storia, ci sono delle accuse di calcio scommesse totalmente infondate, ma insomma io sono stato lì varie volte e, come dici tu, veramente ti senti come se avessi una seconda, una terza, una quarta identità calcistica, ma che poi è anche personale, perché poi ogni squadra è un paese, ogni paese è una città, ogni città è una storia. Noi siamo anche le squadre che tifiamo, su questo non c'è dubbio. Certo, quando hai detto un'accusa probabilmente infondata, lì è uscito un po' il tifoso che c'è in te. Sì, no, cioè, no, la tifoso è anche il legame con quella squadra, con quelle persone. Ma tu no, vivi a Barcellona, ho capito bene? Tra Roma e Barcellona. Tra Roma e Barcellona, ok. Quindi insomma, continua. La vidaccia, terribile. Beh sì, infatti. Lo spirito Erasmus non si perde mai, mi pare di capire. No, no, assolutamente. Poi, peraltro, per noi ragazzi, diciamo, io vengo da Roma, Roma Nord, così, per noi l'Erasmus è stato un trauma, perché noi abituati a stare a casa con i genitori fino a 25 anni, a decidere la mattina, non so, la crostata, la diviscio, le albicocche, e ritrovarci da soli in una città straniera è stato un trauma incredibile. Io l'Erasmus lo sto vivendo ad ora, finalmente sto capendo come si sta da soli in un'altra città. Cioè, sai, nel resto d'Europa, ragazzo danese, norvegese, tedesco, quelli a 18 anni li cacciano di casa, vanno in Erasmus, tutto in discesa. Per noi è stato il primo trauma, sicuramente, io parlo per noi italiani. Quindi anche questo un po' si rivede nel libro, questa sorta di così distruggimento per questo... epoca dorata, perché è la prima volta in cui abbiamo veramente passato un'epoca da soli. Grazie a Federico Mastro Lilli, memorie dell'Europa calcistica, www.incontropiede.it, il sito ufficiale della casa editrice. Ciao Federico, grazie. Ciao, grazie, buona giornata. A te. Europost-it. Astrattismo in Europa, capolavori in mostra a Bard. Una raccolta di 80 opere tra capolavori di Kandinsky, Popova, Majakovsky e Malevich per ripercorrere le radici della modernità nell'arte europea. È la proposta del Forte di Bard in provincia di Aosta, che fino al 2 giugno mette in mostra oli e disegni dei 30 principali artisti dell'astrattismo. La rassegna consente di immergersi nelle tendenze artistiche dell'Europa orientale e centrale della prima metà del XX secolo, dalla nascita della pittura astratta ai movimenti di arte non figurativa che si diffusero in tutto il continente. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito fortedibard.it. Anche oggi tante dritte, tante suggestioni, questa è l'Europa che ci piace raccontare, questo è il modo, insomma, che... in cui ci piace raccontarla. Radio24.it è il nostro sito, vi ricordo che potete contattarci direttamente via email, l'indirizzo lo conoscete, l'altraeuropa@radio24.it, oppure sui nostri account su Facebook e su Twitter, oppure sul mio personale @FedericoTaddia. Un grazie a Silvia Righini e a Miriam Lucchetti che con me hanno scritto la puntata, Claudia Schiattone oggi in assistenza, Valeria Bernardi invece ha giocato con i tasti. L'appuntamento con l'Altra Europa è a sabato prossimo, come sempre alle 12. Io sarò un pezzettino in onda anche domani con Alessio Maurizi all'interno di Si può fare verso le 10.45 con la vetrina del crowdfunding. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.